Padri Eterni di Matteo Bussola e Federico Taddia. Buona domenica da Federico Taddia e Matteo Bussola. Eccoci qua, due padri in un programma che parla di padri e parla ai padri ogni domenica in diretta qui da Radio 24, radio24.it, il nostro sito. Da lì potrete poi scaricare il podcast oppure, se volete, potete anche mandarci messaggi 349-238-6666, sms, whatsapp per interagire con noi. Il tema di oggi, ci ispiriamo anche noi al film Gli Sdraiati e parleremo di adolescenti. Allora, io ci sono dentro, con i miei figli fino al collo. Per te sarà una puntata un po' preparatoria, perché le tue figlie sono ancora un po' giovani. Sì, io sto entrando nella preadolescenza con la più grande, che si sta pericolosamente avvicinando a quella che io definisco la zona del vaffanculo. Certo, se quella zona che il nostro amico Alberto Pelà invece definisce lo tsunami, che quindi non è molto più incoraggiante, però è quello che arriva, e per fortuna che arriva, perché è un periodo comunque complicatissimo ma anche bellissimo. Quindi oggi gli adolescenti, grandi protagonisti. La corsa con te in braccio fatta per le scale, confondere lo zucchero al posto del sale, e ridere di niente che poi ci porta foto di noi ad un selfie venuto male. La pioggia allunga il cocktail fatto per restare, ed il tuo mondo vola intanto il ghiaccio cade. Piano ti addormenti che poi ti porto dentro se vuoi, mentre ti resto a guardare. Dimmi qualcosa, qualcosa che resta senza fare di più, che la scena è perfetta se quando ti guardi già tutto migliore. Perdo le parole, prova con gli occhi. Tentiamo anche di fare un po' di servizio pubblico nei confronti dei genitori. Questo è Ricky, canta Perdo le parole, il vincitore di Amici 2017, ed è amatissimo dagli adolescenti, quindi insomma lo abbiamo utilizzato per introdurre questo tema. Gli adolescenti, per natura, lo sappiamo bene, odiano essere generalizzati, e noi oggi invece generalizzeremo tanto, e quindi partiamo malissimo. Però andiamo a tratteggiare un po' questa figura dei cosiddetti sdraiati, questo, insomma, prendendo spunto dal titolo del libro di Michele Serra, poi dal film che è appena uscito con la regia dell'Archibugi, insomma questa etichetta che tanto poi sta stretta ai ragazzi e alle ragazze. Andiamo a capire chi sono gli adolescenti, tentiamo di farlo con Silvia Pagani, una pedagogista molto brava, molto attiva, ideatrice della Non Scuola qui a Milano, dell'associazione Arte Media. Ciao Silvia, ben trovata. Ciao a tutti, buona domenica. Buongiorno Silvia. Allora, buongiorno. Tu da anni lavori con gli adolescenti, a scuola, sì, fuori da scuola, insomma, li prendi per mano, sì, li accompagni, li segui, li ascolti, li capisci soprattutto. Vero. È possibile fare una fotografia di chi siano gli adolescenti oggi? Allora, hai detto giusto, loro non piace la generalizzazione, perché poi sono portatori ognuno davvero di grandi tesori, no? Però se dovessi dare uno sguardo trasversale, cosa che ho tentato di fare con Artademia, il discorso è che io credo che loro siano portatori, tutte le nuove generazioni, di grandi doti, di grandi caratteristiche che noi siamo un po' poco allenati, un po' poco preparati a riconoscere. È curioso, no, che l'uomo di questa epoca è pronto ad accogliere grandissimi cambiamenti. Pensate all'ambiente tecnologico, nell'arte, nella musica, cioè siamo pronti ad accogliere il cambiamento di un mondo che va molto veloce, però poi rimaniamo assolutamente spiazzati davanti al cambiamento del genere umano. Io credo che questa generazione sia molto diversa. Due caratteristiche su tutte, che tutti quelli che hanno avuto a che fare con i ragazzi riconoscono, sono: uno, un'enorme ipersensibilità. Loro sono così sensibili, così capaci di sentire, che con loro per esempio è impossibile mentire. Okay. Loro sentono non solo le parole, sentono tutto quello che ci sta dietro, cosa che noi nelle generazioni passate non eravamo così bravi a fare. Chiaro che poi la loro reazione diventa quella tanto denunciata, no? Degli sdraiati, sono quelli che non hanno voglia di far niente, gli oppositivi, i trasgressivi, quelli che si chiudono, poi tutte le certificazioni che ben conosciamo che ormai si sprecano, ma in realtà loro hanno, è come se avessero un amplificatore della percezione. Con un mondo invasivo come il nostro, è chiaro che poi la reazione esce come un comportamento che diventa un comportamento quasi fuori luogo, disturbato, ma in realtà perché noi siamo molto poco capaci di riconoscere queste doti che loro portano. Silvia, mi piace molto il discorso che fai sull'accoglienza, no? Sull'accogliere questa diversità, perché poi in realtà una cosa della quale forse no, siamo poco consapevoli è che alla fine adolescente è un participio presente e adulto è un participio passato, no? Ma derivano dalla stessa parola poi, cioè adolescente è colui che si sta nutrendo e che sta diventando, l'adulto in teoria è colui che è già diventato. La tentazione alla quale da adulti e da genitori spesso è difficile sfuggire è di indirizzare i ragazzi, nel senso di spiegare loro quale deve essere la strada, visto che noi, che è quanto di più sbagliato secondo me ci possa essere. Noi abbiamo questo, scusami, è finito? Sì, sì, assolutamente. Noi abbiamo questo, è una cosa che mi appassiona talmente che faccio fatica a rispettare i miei spazi. Noi abbiamo questa tendenza come adulti di pensare che ci sia una normalità, no? Poi facciamo tanti bei discorsi teorici sul fatto che ognuno deve rispettare le inclinazioni degli altri, però già le scelte diverse dei nostri figli ci mettono in difficoltà e quindi abbiamo in mente come dovrebbero essere, solo che abbiamo in mente un come dovrebbero essere che risale a qualche cosa che noi abbiamo imparato ancora dalle generazioni precedenti. Loro portano qualcosa di molto diverso e noi facciamo fatica ad accogliere che, guardate per esempio in ambito musicale, no? Quanti genitori non riescono a ritenere tutta la musica moderna, il rap, è realmente uno stile musicale, perché no? Fare musica è un'altra cosa. Ma Silvia, ascolta, perché adesso qui esce il papà, il padre che c'è in noi, allora, con l'adolescente in quanto padre ti sembra di sbagliare sempre? Ecco, la domanda a cuore è: sbagliamo sempre o loro sono particolarmente bravi a farci credere che sbagliamo sempre? Allora, intanto io dico sempre ai genitori che seguo, nel momento in cui noi pensiamo di fare un figlio, già firmiamo un contratto dove almeno il 50-60% dei gesti che faremo li sbaglieremo. Oh, preparati okay. O no, li sbagliamo. Da una parte c'è anche l'utilità dello sbagliare, perché se è vero che l'adolescente sta crescendo e sta cambiando, l'adulto si è formato, ma come genitore è uguale, sta crescendo e sta cambiando, per cui noi entriamo insieme a loro in questa fase della vita e sbagliamo insieme, perché anche gli errori ci servono per andare avanti, per imparare la direzione. Chiaro che dobbiamo essere così capaci, questa è la cosa più difficile, di stare in equilibrio tra il vero ascolto, per cui cercare di capire perché ci chiedono, ci contestano alcune cose, e la responsabilità educativa, perché è chiaro che loro ci diranno sempre che noi sbagliamo, perché il loro ruolo in questo momento è scontrarsi con la parte adulta per trovare la misura, e noi dobbiamo essere così forti da riconoscere dove ascoltare e quindi anche modificare qualche cosa per andargli incontro e dove invece tenere fermo, perché il contenitore in questo momento lo mettiamo ancora noi ed è fondamentale che loro si sentano al sicuro nel nostro contenitore. Ok, dai, ma è un po' rincuorato. Allora, ringraziamo Silvia Pagani. Ricordiamo artademia.it è il sito per conoscere tutte le attività dell'associazione, in particolare la non scuola, c'è anche un bel percorso di formazione in atto, ma ci ritroveremo sicuramente, Silvia, qui ai Padri Eterni per conoscere meglio anche la tua scuola, che è molto stimolante. Bravissimi. Quando volete io ci sono. Buona domenica, ciao. Un abbraccio, ciao. Ciao Silvia. Ci fermiamo, il traffico, poi ancora qua, in diretta con i Padri Eterni. Padri Eterni. Il dentifricio non esce più. Si è formato come un bolo secco che ostruisce il foro d'uscita. Chi è? Dal greco bolos, che vuol dire zolla, è un impasto del muso. Capito, ma come cazzo rimetto che tutto secco non si avvita? Beh, è quello il problema. Perché qualcuno ha lasciato il tappino fuori, si è seccato. Qualcuno, tanto per dire. Ma perché non chiudi? Non spegni, non finisci? Cos'è questo bisogno di incompiuto che hai? Perché non ci pensi mai che mi sono veramente rotto il cazzo di sopportarti? Oh, hai scelto tu di vivere metà del tempo con me, eh? Avevo 10 anni, papà. 10 anni, adesso ce ne ho 17. Pesavo 20 kg e adesso ne peso 70, cazzo. Devi capire che la gente cambia, cresce, che non puoi continuarmi a rompere i coglioni sul volo. Devi imparare a farti i cazzi tuoi, papà. Era una clip, il dentifricio al centro in questo scambio padre e figlio, il film Gli Sdraiati, Claudio Bisio, avete riconosciuto, Gaddo Bacchini invece nella parte di Tito, insomma un film che racconta una generazione, un film appunto ispirato al libro di Michele Serra, Gli Sdraiati, con la co-sceneggiatura di Francesco Piccolo che è qua con noi. Ciao Francesco, benvenuto ai Padri Eterni. Buongiorno, buongiorno a voi. Ciao Francesco. Ti è piaciuto il film? Non... sì, mi è piaciuto molto, molto. Ascolta, parto subito da... Io l'ho avuto la fortuna di guardarlo insieme a mio figlio 14enne e gli ho chiesto, ma com'è Tito secondo te? Lui mi ha detto, è un ragazzo arrabbiato. È la rabbia al centro di questo non dialogo tra padre e figlio? Credo che ci sia anche questo. Tito è figlio di due genitori separati, vive in due case, quindi come dice lui, tipo con due regole, con due armadi, con due scrivanie, e questo evidentemente ha fatto in modo anche che nascesse una rabbia. Oltre alla rabbia però c'è una differenza di linguaggi ovviamente. Insomma, c'è tanta rabbia in questo che l'abbiamo già detto molte volte, no? È un punto di partenza il libro di Michele. Tu hai voluto raccontare più una generazione, quella dei padri, più una generazione, quella dei figli, o non c'era questa presunzione, diciamo, di raccontare, di fotografare una generazione? Secondo me non bisogna mai avere questa presunzione di fotografare le generazioni. Si possono raccontare delle storie. E poi se queste storie hanno a che fare con un pensiero più ampio si vede. La differenza con il libro di Michele Serra è che il libro di Michele Serra prima di tutto ha un punto di vista, è quello del padre sul figlio, mentre invece noi abbiamo raccontato anche il punto di vista dei figli sui padri. E poi ovviamente non è che è uno spunto, è l'essenza del film, però... essendo quello un racconto filosofico, anche un po' un pamphlet, noi abbiamo dovuto inventare personaggi e altre storie. Ecco, è un film che ha più racconto che pensiero. Sì, Francesco, ti volevo chiedere una cosa, cioè nel senso, poi alla fine no, io credo che ognuno sia sdraiato a modo suo, no? Spesso siamo anche noi adulti che siamo sdraiati sulle nostre certezze, potremmo dire. In questo senso io vedo la difficoltà che scorgo, no, in Tito, o meglio la difficoltà di suo padre, è quella di non riuscire a capire che poi, come dire, noi adulti tra i 40, i 45, i 50 anni sostanzialmente rimaniamo più o meno le stesse persone, no? Facciamo naturalmente nuove esperienze, ma siamo sostanzialmente formati. Un ragazzo tra i 10 e i 17, come diceva prima Tito nella clip, diventa, cioè cambia completamente. A volte la cosa che noi forse facciamo fatica ad accettare è proprio questo cambiamento, questa rivoluzione totale. Sì, noi facciamo fatica ad accettare due cose. Prima di tutto che siamo sdraiati anche noi a 50 anni perché abbiamo gli stessi vizi, gli stessi tic, e cioè per esempio io rimprovero mia figlia di usare troppo il cellulare, mia figlia rimprovera me di usare troppo il cellulare, perché in fondo siamo uguali. L'altra questione è che ci dimentichiamo che appunto tra i 15 e i 17 anni eravamo così, eravamo in evoluzione, eravamo tesi, eravamo complicati, eravamo confusi. Allo stesso modo, adesso guardare i nostri figli, a cui abbiamo facilità a dire che sono diversi, sono lontani, chissà come sono, chissà se capiranno qualcosa. In realtà, come succede sempre, di generazione in generazione si capisce tutto, nel senso che si diventa adulti come sono diventate adulti tutte le generazioni, e anzi è molto probabile che le generazioni successive siano migliori delle generazioni precedenti. Quindi questo pregiudizio che di solito i genitori hanno guardando i propri figli come alieni è un pregiudizio che può morire facilmente. Il film cerca di raccontare proprio questo. In Tito c'è una rivoluzione che non è solo quella adolescenziale, ma è anche un innamoramento. Si innamora di Alice, una coetanea interpretata dalla bravissima Ilaria Brusadelli, che è qua con noi. Ciao Ilaria. Ciao. Ciao Ilaria. Buongiorno, complimenti intanto per... Grazie mille. Tu ti senti una sdraiata? Ma come ho già detto tante altre volte, no. Ovviamente da una parte anch'io sono sdraiata, ma come penso tutti, perché anch'io ho le mie abitudini, diciamo, da sdraiata, anch'io me ne sto sul divano qualche volta, però sicuramente non sono sdraiata come viene inteso nel film, diciamo che un po' un rapporto estremizzato, no, nel film. Ma nel film ci sono tanti tuoi coetanei, li hai riconosciuti, nel senso sono simili ai tuoi amici e alle tue amiche, o secondo te appunto questa parola che hai già usato, cioè estremizzato, è la parola giusta? Diciamo che dipende dai comportamenti. Da una parte sono simili ai miei amici, sicuramente sono più simili in base a come si rapportano con gli altri ragazzi. Però secondo me il rapporto tra genitore e figlio che viene visto nel film è un po' troppo estremizzato. Non penso che i miei compagni, i miei amici si comportino così con i loro genitori. Francesco, tu ad Alice hai scritto più silenzi che parole. Sì, Alice è un personaggio che appunto è in contrasto con il gruppo di amici di Tito, e soprattutto è in sintonia con Tito non tanto per le parole quanto per l'amore e l'innamoramento. Alice dice anche: io ho un problema dentro, in un occhio, che mi fa sembrare antipatica agli altri, mentre invece non lo sono. È semplicemente silenziosa. Appunto, questo riguarda anche quello che stiamo dicendo. Ovviamente c'è la fotografia di una generazione, ma ci sono i personaggi particolari di un film. Quando si racconta una storia, si racconta un personaggio, e Tito e Alice sono due personaggi particolari. La sofferenza di Tito con i genitori è la sua sofferenza, e poi ci sono le generazioni, ma quelle sullo sfondo. Francesco, senti, mi lancio in un parallelismo avventuroso. La differenza fondamentale, credo, ritengo, la seconda non l'ho mai sperimentata, tra la scrittura tout court e la scrittura cinematografica è forse, no, che nella scrittura cinematografica tu devi prevedere uno spazio, devi lasciare spazio a chi verrà dopo di te, quindi all'interpretazione attoriale, al punto di vista del regista e così via. Questo lasciare spazio, che poi è ciò di cui stiamo parlando, no, come metafora anche nei confronti dei nostri figli, ti è utile nella tua esperienza di padre poi? Sì, mi è utile, ma allora la scrittura in generale sembra molto utile a tutto, sembra molto utile a fare terapia nei confronti del mondo, e poi alla fine credo si riveli piuttosto fallimentare, nel senso che si tenta di cambiare attraverso le cose che si scrivono, di capire il mondo attraverso le cose che si scrivono, poi lo si capisce ma non si riesce poi a cambiare così tanto. Questa è una cosa fondamentale. Per quanto riguarda il cinema, la cosa più bella dello scrivere personaggi è poi incontrarli realmente. Fin quando sono su carta sono una cosa, ma poi appunto Alice è interpretata da una ragazza che non ha mai fatto cinema, ti è interpretato da un ragazzo che non ha mai fatto cinema, e questo porta le loro personalità, la loro umanità. Poi se io imparo come genitore, io dico sempre sì o spero di sì, ma poi in realtà non lo so. Credo che poi è difficile giudicarsi come genitori, soprattutto è difficile giudicare se si è buoni genitori o no. Ilaria, cambierà ora la tua vita? Come si fa a rimanere coi piedi per terra in un momento così? Ma si spera che la mia vita cambi, diciamo. Sì? Nel senso si cerca comunque di rimanere coi piedi per terra. Di rimanere la stessa persona di prima. Ieri quando l'ho chiamata per mettermi d'accordo per l'intervista, l'ho beccata, eri in pullman, ero appena uscita da scuola, sembrava una scena del film con rumori di sottofondo. Ti chiedo giro a te una domanda che ci fa Barbara via WhatsApp, e ci chiede: ma è un film da vedere genitori e figli insieme, Gli sdraiati? Qual è la tua idea, Ilaria? Secondo me è un film sì da vedere insieme, perché non dà solamente il punto di vista dei genitori, ma dà anche il punto di vista dei figli. Quindi i genitori possono capire perché i figli si comportano in un determinato modo, e allo stesso modo i figli possono capire le motivazioni dei genitori. Quindi insomma è da vedere insieme. È da vedere anche insieme. Anche perché è piuttosto divertente. Francesco, sei della stessa idea, è da vedere insieme? Sì, Devo dire che sarebbe molto bello andarci insieme, genitori e figli, perché si vede sullo schermo un confronto che alle volte è duro, ma soprattutto invece è divertente. Si può dire qualche volta, ah è vero, anche noi siamo così. Grazie davvero a Francesco Piccolo, co-sceneggiatore del film Gli Sdraiati, grazie ad Ilaria Brusadelli, interprete del film Alice, del film appunto nella parte di Alice. Ciao Ilaria, grazie. Ciao, grazie a voi. Eccoci qua, insomma, questi sono Gli Sdraiati, questo è questo film che tratteggia un incontro, uno scontro, una chiacchierata continua. Io ti ripeto, Matteo, l'ho visto con mio figlio, a un certo punto gli ho chiesto: ma perché secondo te padre e figlio non si capiscono? E lui mi ha detto: perché il padre, che essendo padre ovviamente più anziano, non accetta che il figlio sia così diverso, e nel momento in cui non accetta la sua diversità non riesce più a comprenderlo, che è un'interpretazione credo molto corretta. Credo che tuo figlio abbia perfettamente ragione. Proprio perché il mestiere di genitore, come dicevamo prima, è questo difficile equilibrio, no? tra suggerire ed accogliere, tra aprire la strada e poi lasciare che la percorrano loro. È molto più facile cedere alla tentazione di spiegare loro quali sono i passi giusti, sperando che magari siano gli stessi che abbiamo percorso noi. La realtà è che il bello di quel percorso lì, ciò che lo rende unico, è che è il tuo. E non può essere quello che ti segnala un altro, anche se quest'altro è la persona al mondo che ti vuole più bene. Questi sono i Padri Eterni, adesso ci fermiamo, il momento della pubblicità. Vi ricordo che potete scriverci, potete mandarci i vostri messaggi, SMS oppure WhatsApp al 349-238-6666. Fra un attimo qui in diretta. Padri Eterni. Salve a tutti, mi chiamo Tatiana e ho 18 anni e ai papà vorrei dire, data la mia esperienza ma data anche l'esperienza dei miei amici, di essere presenti nella vita dei propri figli. E capiamo il lavoro, capiamo gli impegni, però essere presenti anche tramite piccoli gesti che sono i più banali ma anche i più importanti e i più belli, quelli che resteranno impressi nella memoria dei propri figli. E piccoli gesti come buongiorno tesoro, oppure ciao amore, come è andata oggi la scuola, ti accompagno io a fare sport, andiamo a prenderci qualcosa al bar, piccole iniziative che possono riempire la quotidianità. Questo è fondamentale anche perché secondo me un padre deve essere il supereroe del bimbo maschio e il principe azzurro della bimba femmina, e nel ruolo della femmina un compito davvero molto importante, e qui riprendo una citazione di un libro di Giulia Carcasi, quello di non far perdere l'incanto della femminilità, e non c'è modo più bello di mantenere l'incanto e l'importanza della donna se non tramite un padre. E ovviamente ha un ruolo importante anche nella crescita del figlio, però mi aveva colpito, essendo una femmina, mi aveva colpito questa citazione all'interno di questo libro. Tatiana, l'elogio delle piccole cose e l'incanto della femminilità, che bello. Sì, bellissimo. Poi, insomma, questo incanto della femminilità nella settimana che vede il giorno, no, contro la violenza sulle donne ha particolarmente senso. Mi piace anche questo discorso di investire sulla presenza, che è una cosa che ripetiamo spesso, cioè investire non tanto sull'esserci costantemente, ma sul tempo di qualità. Alla fine la difficoltà del mestiere di genitore sta proprio in questo difficilissimo equilibrio, no? Tra trattenere e lasciare andare, tra essere e esserci. Però sono le piccole cose cosiddette che compongono le nostre giornate. Questa è Radio 24, questi sono i Padri Eterni. È un'ora che aspetto. Dove? Dove? Dove? Davanti al portone. Su trovo una scusa per uscire di casa. Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte. Devo dirti qualche cosa che riguarda noi due. T'ho visto uscire dalla scuola insieme ad qualcosa, che sono geloso, che se lo rivedo gli sbaglierò il muso. Tu digli dirgli qualcosa che sono geloso, che se non rivedo gli sbaglierò il muso. Una canzone non più giovane interpretata da un altro non più giovane che è Fiorello, però insieme a Dante, un giovane stile Galli, un giovanissimo, insomma, noi che parliamo tanto di ponti tra generazioni ci sembrava la giusta canzone questo Fatti Mandare di Fiorello e Dante. E continuiamo a parlare di adolescenti e lo facciamo con una chiave quasi, non quasi, con una chiave assolutamente scientifica, che è quella del andare a vedere questo cervello degli adolescenti, no? Questo cervello che non riusciamo a leggere, non riusciamo a capire, che ci sembra in continuo movimento, ci sembra un qualcosa di estraneo da noi. E lo facciamo con Luca Passamondi, che è un neuroscienziato del CNR, lavora all'Università di Cambridge e studia il cervello proprio in... Pochi giorni fa su Repubblica è uscito un articolo intitolato La molecola del giudizio, così una proteina fa finire l'adolescenza, ed è un articolo che parla di un particolare esperimento, che, una particolare ricerca che hanno eseguito. Diamo il benvenuto a Luca Passamonti. Ciao Luca. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno Luca. Si può fotografare il cervello degli adolescenti? Sì, si può fotografare con l'utilizzo delle nuove metodiche di risonanza magnetica, metodiche sofisticate, sia funzionali che di natura più strutturale e anatomica. Ovviamente non si tratta di un tipo di risonanza che si fa comunemente negli ospedali, si tratta di tecniche sofisticate che usano centinaia di cervelli di adolescenti fotografati, però si può vedere che durante l'adolescenza c'è un rimaneggiamento molto forte di alcune zone del cervello, soprattutto le zone prefrontali e frontali, che sono le zone del cervello giusto dietro la nostra fronte e che sono le zone che tendono a maturare più lentamente, che sono quelle anche zone che si pensa siano coinvolte nel frenare gli impulsi. Una cosa in cui gli adolescenti fanno fatica, ed è un po' come potare con fatica una vite, perché queste sinapsi vengono letteralmente potate nel corso dell'adolescenza per arrivare appunto alla maturità. È un processo lento e faticoso anche a livello proprio del cervello. Luca, io guarda, trovo meraviglioso questo concetto di potatura, cioè perfettamente, è un'immagine che rende perfettamente l'idea, no? Io ricordo una volta che ho parlato con un agricoltore della Val di Non e mi spiegava proprio che lì si parlava di meleti, no? Che alla fine è l'agricoltore a decidere la forma dell'albero, però contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non lo fa imponendo, come dire, la sua forma o il suo volere all'albero, ma assecondando i rami più forti e sui quali si vedono germogliare più gemme, no? Quindi è assecondare in un certo senso la sua naturale inclinazione. E questo... è esattamente quello che succede nel cervello, sì sì. Perfetto. Questi paragoni anche con il mondo vegetale rendono molto l'idea, perché in fondo i processi di sviluppo della cellula o comunque i processi di sviluppo fondamentali proprio della vita sono simili. Ma quindi il cervello dell'uomo è così, bisogna assecondare la parte della vite che tende a crescere di più e di meno, però ripeto, è un processo faticoso e questa potatura è un processo lento che a volte può andare anche nel verso sbagliato. Penso agli adolescenti che poi sviluppano problemi antisociali, problemi di aggressività, violenza o cose come depressione, ansia a lungo termine. Luca, scusa, ma di cui noi genitori possiamo essere solo spettatori di questa potatura, di questo cambiamento, di questa rivoluzione, o si può aiutare, si può essere utili in un qualche modo a indirizzare la potatura? Assolutamente, no. Assolutamente, non si deve essere spettatori, si deve essere parte integrante di questa potatura, però bisogna avere quella sensibilità d'animo, chiamiamola così, di capire dove la vite va, perché non si può potare nella direzione in cui quella vite non è destinata ad andare, quindi è un processo molto complesso e richiede anche da parte dei genitori una sensibilità tale di capire soprattutto quali sono le attitudini dell'adolescente, perché spesso vogliamo che i nostri figli facciano quello che diciamo noi, invece sono individui, sono viti indipendenti che pigliano la loro piega. ovviamente il compito secondo me dei genitori è quello di non fargli prendere una piega deviata, però poi all'interno delle tante pieghe possibili bisogna assecondare quella che è la naturale inclinazione, secondo me. Quindi potremmo riassumerla dicendo che insomma ha pienamente senso da un punto di vista educativo investire sulle inclinazioni e sui talenti di ciascuno. Sì, assolutamente, assolutamente. Il processo faticoso è capire quali siano, spesso anche per l'adolescente stesso. In effetti. Luca, nell'articolo riportato da Repubblica si parlava di questa proteina, l'aminina alfa 5, appunto che sembra determinante, anche se è un esperimento, mi pare di capire, fatto sui topi, vero? Sì, è un esperimento sui ratti e sebbene sia una proteina molto importante, perché è una proteina strutturale delle sinapsi, stabilizza le sinapsi, quindi sostanzialmente se, la sinapsi non si stabilizza, poi viene potata, le sinapsi che non sono forti abbastanza, perché quello che avviene nel cervello è un processo in fondo un po' di evoluzione della sinapsi, un po' come quello che avviene nell'evoluzione della specie, i meno forti vengono potati via. E questa proteina sembra essere importante per stabilizzare la sinapsi, quindi per rappresentare quel primo mattoncino affinché la sinapsi possa resistere all'onda d'urto, diciamo, della selezione naturale. Ora, a me però non piace molto il concetto della proteina della saggezza in generale, perché non è impossibile pensare che un processo complesso come l'evoluzione cerebrale che avviene durante gli anni dell'adolescenza sia dettata da una singola proteina. Diciamo che singole proteine sono importanti, ma si tratta letteralmente di un concerto in questo caso, in cui un violinista può giocare sicuramente un ruolo determinante, specie se è un violinista di talento, di successo, però è in fondo è tutta l'orchestra che determina la sinfonia e quindi la naturale evoluzione del cervello durante l'adolescenza è determinata da tante altre proteine, da tanti altri fattori. Proteine e fattori dove appunto noi genitori giochiamo un ruolo e questo ci piace comunque, insomma con tutta la responsabilità del caso, però credo che sia anche bello saperlo, no? Perché fa parte del nostro mestiere. Le dico con assoluta certezza che l'ambiente familiare è determinante per lo sviluppo adolescenziale del cervello. Quello che sappiamo in psichiatria e anche in neuropsichiatria è uno dei fattori di rischio più importanti praticamente per lo sviluppo della gran parte delle malattie psichiatriche, è il maltrattamento infantile e adolescenziale. Cioè sappiamo quasi con assoluta certezza, e ripeto, nella scienza dare delle certezze così forti è spesso molto difficile, ma sappiamo quasi con assoluta certezza che i bambini maltrattati o comunque che crescono in situazioni svantaggiose dal punto di vista familiare, soprattutto dal punto di vista psicologico, hanno una maturazione cerebrale diversa. Questo sembra essere anche presente nei ratti che subiscono stress e maltrattamento precoce. Quindi l'ambiente familiare, soprattutto perché comunque il bambino e l'adolescente all'inizio crescono nell'ambiente familiare molto, sembra avere un ruolo determinante in questa potatura. Quindi il vignaiolo nella vite il suo ruolo fondamentale ce l'ha. Poi la vite ovviamente tende a prendere la strada sua anche un po' indipendentemente dal vignaiolo. Quindi Luca, potremmo concludere dicendo che le proteine più importanti sono quelle dell'attenzione e del reciproco rispetto. assolutamente sì. Grazie Luca. Luca Passamonti, neuroscienziato del CNR, Università di Cambridge. Complimenti. Prego. Per il lavoro, in bocca al lupo per tutto. Ciao, grazie. Grazie. Fermiamo il traffico, poi ancora qua con i Padri Eterni. Padri Eterni. Ammettiamolo, gli adolescenti non sono persone poi così sincere. Sei in quel momento della vita in cui inizi ad avere un po' più di libertà, in cui inizi a farti le tue amicizie, ed è anche quel momento in cui i tuoi genitori vorrebbero che tu fossi un po' più responsabile. Ed è proprio per questo che stanno sempre in mezzo alle palle. Come sicuramente avrete già letto dal titolo, oggi appunto parleremo di disagi adolescenziali, ovvero di tutti i vari problemi e pippe mentali che abbiamo noi, ma che poi in realtà non sono così tanto problemi perché agli occhi degli altri sono delle cavolate. Jacopo, mi dice cosa fa tuo fratello? Ma no, niente nonna, lui è un muser. Un muser? ma mi sembra un pirla. Eccola qua, questo è un mix di clip, sono youtuber che parlano di adolescenti, agli adolescenti giocano, prendono un po' in giro, giustamente, noi adulti. Un tema centrale che ritorna tantissimo anche nel libro Sdraiati, che ha ispirato un po' la puntata di oggi, è quello ovviamente del controllo e delle domande, no? Perché siamo portati a fare un sacco di domande a questi adolescenti e loro sono portati a non rispondere a queste domande. Anche questo fa parte del ruolo. C'è con noi ora Edoardo Costolino, direttore dell'unità operativa complessa dipendenze del Fate Bene Fratelli Sacco di Milano. Un paio di giorni fa un articolo, mi pare sul Giornale, intitolato "I genitori tornino a fare domande, l'attenzione per i figli può salvare". Andiamo a capire come fare le domande e quali sono le domande giuste da fare. Buongiorno Costolino. Buongiorno a lei. C'è bisogno di tempestarli questi ragazzi di domande? Bisogna far capire loro che c'è un interesse nei loro confronti. Quindi le domande servono fondamentalmente per veicolare questo. Cioè, io genitore mi preoccupo di te, io genitore ti ho in mente, io genitore mi pongo il problema di dove vai, cosa fai, quando torni, chi sono i tuoi amici. Non delego al tuo gruppo dei pari, non delego totalmente alla scuola o altre istituzioni il compito di educarti. Ma loro non ci stanno a questo gioco però? Cioè, queste domande loro fuggono? Cioè, no? Sì, ma l'ha detto lei bene mentre ero in preascolto, è il gioco del ruolo. Il loro ruolo è cercare di crescere e crescere vuol dire rendersi autonomi rispetto alla figura dei genitori. Quindi loro fanno bene a cercare di svincolarsi, ma il compito dei genitori non è di impedirglielo, ma di attrezzarli perché siano in grado di farlo. Quindi bisogna seguire i tempi che definisce il genitore. È il genitore che decide quando suo figlio ha delle caratteristiche, suo figlio o sua figlia ha le caratteristiche per poter essere maggiormente autonomo. Non può deciderlo il figlio, cioè c'è una posizione che non è paritaria tra chi educa e chi viene educato. E il politicamente corretto nei rapporti genitoriali non funziona. Sì, non siamo tra pari. Io sono abbastanza d'accordo con quello che dice Cozzolino, nel senso che alla fine, cioè, le regole e i paletti sono indispensabili ai ragazzi, no? Proprio perché è attorno, sì, a quelli che struttureranno il loro percorso. Proprio come uno slalomista che scende dalla pista, o come dicevamo prima, no? Come la vite che poi cresce attorcigliandosi attorno a quello che è il suo sostegno. Al contempo, naturalmente è una provocazione che lancio, io non credo molto nel concetto di vigilanza, ma credo in quello di presenza, no? Proprio perché la fiducia poi si costruisce anche concedendo spazi, non necessariamente togliendoli, perché come lei ben dice, poi a volte anche certe situazioni limite, forse anche l'uso di certe sostanze, possono essere anche la conseguenza forse di un'invadenza ossessiva dei genitori, no? Lo sbaglio può diventare inconsciamente una maniera per segnare una distanza, per dire che si sta diventando grandi, è una forma di autonomia paradossalmente. Sì, di un'autonomia però patologica, nel certamente senso che se è un gesto di ribellione di tipo autodistruttivo, vuol dire che il genitore ha probabilmente rappresentato la sua presenza in modo invadente e appunto vigilante, mentre invece la presenza del genitore deve essere un elemento di rassicurazione. Perfetto. Il figlio tenterà sempre di trasgredire la regola. Ed è giusto che lo faccia, perché per diventare adulto bisogna anche andare oltre le regole che ci hanno imposto gli altri. Sì, sì. Questo è fuori di discussione. Costolino, ci sono domande secondo lei più giuste di altre, o in questo momento c'è un qualcosa in cui noi padri nei confronti degli adolescenti dobbiamo stare particolarmente attenti? Guardi, particolarmente attenti vuol dire come faccio a capire che c'è già un problema. E allora, se siamo lì, il discorso è stare attenti ai cambiamenti di abitudini del figlio, cioè improvvisi cambiamenti di giro di amici, orari, rendimento scolastico. Questi possono essere indicatori, ahimè, anche di una semplice crisi adolescenziale. Però possono essere anche indicatori di qualcosa che non sta funzionando. Ma se ragioniamo invece in termini preventivi, cioè come faccio a pormi in un modo autorevole nei confronti di mio figlio, guardi che le domande possono essere veramente le più banali che vengono in mente. Dove vai? Chi sono i tuoi amici? Li voglio conoscere. A che ora torni? Non puoi tornare a 16 anni alle 4 o alle 5 del mattino e io ti faccio tornare anche a forza entro l'una e mezzo o l'una, all'orario che decido io, non esiste l'orario giusto. Okay. Però ti aspetto in piedi. Mi sembra... Ti faccio capire che conta anche per me, non vado a dormire, non vado via per il weekend. Se tu sei qua, non ti lascio da solo se hai 16 anni. Questo conta. Mi sembra chiarissimo. Grazie Costolino, ci ritroveremo sicuramente qui a Padri Eterni. Al momento di saluto, un grazie a Carmelo Lauricella, un grazie a Valentina Ternullo oggi in assistenza, un grazie a Miriam Lucchetti che con noi ha scritto la puntata. Chiudiamo con la lettera, vero Matteo? Sì, assolutamente. Oggi ci siamo permessi di scrivere niente meno che all'ex presidente degli Stati Uniti d'America. Vai! Lettera aperta a Barack Obama. Caro Obama, questa settimana è successo. Sì, è capitato anche a te di incontrare l'ingrato destino che attende ogni padre di figlie. Hai scoperto, finalmente, assieme a noi tutti, il volto del fidanzato di tua figlia Amalia. Quella che per te resterà sempre una bambina, quella che se chiudi gli occhi ti sembra di avere ancora sulle tue ginocchia, mentre le fai fare le capriole. Quella che ti considerava il suo unico supereroe, ebbene, ora sta con un inglese che su Twitter segue Trump. Che è un po' come se io scoprissi che mia figlia si è messa con un tedesco che segue i tweet del mago Otelma. Volevo dirti che ti sono vicino e che per noi padri comuni è confortante vedere che non c'è salvezza possibile da questo. Che non bastano l'esperienza, i soldi, il potere... Se nemmeno essere presidente degli Stati Uniti può servire a tenere i nostri figli lontani dalle loro legittime scelte. Qualche tempo fa dicesti che quando hai lasciato Maglia al college la prima volta è stato come un'operazione a cuore aperto. Ecco, volevo dirti una cosa che di sicuro già sai. Quel cuore resterà aperto per sempre e solo per lei. Quella ferita non si rimarginerà, ma saprai trasformarla di volta in volta in un sorriso, in un abbraccio sempre pronto ad accoglierla, in un passo indietro al momento giusto, in molte lacrime trattenute. Perché i soli superpoteri di un padre sono esserci anche quando non sembra, lasciare andare anche quando non vuoi, pregare che sia abbastanza.